aus dringenden Gründen verhindert, teilzunehmen. Er wird durch Herrn Roger, der ebenfalls Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Instituts ist, heute Nachmittag, der Herr Roger wird an seine Stelle treten, aber sobald er angekommen ist, auch Domkapitulare verfügen nicht über die Gabe der Bilokation. Die können nicht gleichzeitig an zwei Orten anwesend sein. Ich hoffe aber, es ist in Ihrem Sinne, wenn ich, soweit es in meinen schwachen Kräften steht, schon Herrn Maggiotta Broglio das Wort gebe. Der Ablauf heute Nachmittag sieht so aus. Das Ziel der Koordinatoren ist, dass sie alle auch diesen Tag lebend überstehen. Wir wollen dem institutionell dadurch helfen, dass zunächst Herr Maggiotta ungefähr eine Stunde brauchen wird. Der Riassunto dessen, was er vortragen wird, ist auf Italienisch vorhanden. Ich werde das dann ganz kurz nur von diesem italienischen Riassunto her ins Deutsche übersetzen. Unmittelbar anschließend, vor der Pause, wird Herr van Schewick, etwa 20 Minuten braucht er nur für das Co-Referat der deutschen Situation, sodass wir in ungefähr anderthalb Stunden um 16:30 fertig wären mit den Relationen. Dann trinken wir Kaffee oder trinken auch keinen Kaffee, jedenfalls bekommen frische Luft und haben dann noch eine gute Stunde Zeit für die Diskussion, bei der selbstverständlich auch Herr Aliberti und die anderen Wortmeldungen von heute Morgen zur Sprache kommen. Ha bisogno di tradurre l'introduzione, mi sembra di no. Mi sembra di no. Allora cominciamo, prego. Grazie. Ho dimenticato di salutarlo in. Va benissimo, facciamo che spariamo tempo. Mi levo l'orologio. Dunque, ecco, 2:10. Io innanzitutto devo chiedere scusa se con ritardo ho mandato questo brevissimo riassunto, ma purtroppo ho trovato la richiesta solo la scorsa settimana quando sono rientrato in sede. E devo anche chiedervi scusa di non avere scritto la mia relazione. Però devo dire che, vista la necessità anche un po' di accorciare i tempi, sono quasi più contento di non averla scritta, perché così posso più facilmente dare dei tagli alle schede che ho portato con me e cercare di non tediarvi troppo. E mi scuso con gli amici e colleghi tedeschi, perché certamente in questa mia relazione, più che relazione, diciamo proposta di rilettura di alcune fonti, io farò riferimento a personaggi minori del mondo cattolico italiano, minori, questo sarebbe da discutere, insomma, meno conosciuti, diciamo, del mondo cattolico italiano, a fatti molto specifici di quello che fu il travaglio della rinascita della Democrazia Cristiana, di cose abbastanza minute che probabilmente ai loro orecchi non dicono nulla. Quindi io me ne scuso fin d'ora, ma purtroppo ho preparato questa relazione forse scioccamente con un'ottica un po' troppo nazionale, cioè pensando a un uditorio più italiano, che, ma il professor Reck mi aiuterà. Dunque, la storiografia più recente che tutti voi conoscete sulla nascita e la caduta del fascismo della Democrazia Cristiana ha non solo lasciato aperti numerosi interrogativi anche sul ruolo della Santa Sede nella gestione dell'unità politica dei cattolici, ma ha fornito, a mio avviso, descrizioni eccessivamente schematiche e immagini così poco sfumate da essere talvolta fuorvianti. La rilettura di alcuni importanti documenti già pubblicati, la pubblicazione da parte di Ennio Di Nolfo delle carte di Myron Taylor e l'introduzione stessa di Nolfo, l'analisi di alcuni essenziali documenti inediti che io ho portato qui con me, consentono invece di impostare più rigorosamente le questioni e di riconsiderare problematicamente alcune conclusioni forse troppo rapide. La ricordata tendenza schematizzante ha preliminarmente utilizzato, ne avevo fatto un cenno prima durante la discussione della relazione di Monticone, dicevo, ha preliminarmente utilizzato con eccessiva semplificazione categorie come Curia e Vaticano, considerandole un tutto unico e unitario, una specie di accortissimo Leviathan intento a programmare strategicamente la successione cattolica al fascismo. Gli è che all'interno della Santa Sede, in particolare della Segreteria di Stato, più linee strategiche si davano e più correnti politiche, politiche in senso di politiche ecclesiastiche, convivevano con contrasti profondi, attutiti soltanto dall'atmosfera felpata e reverente dei palazzi apostolici. Scottati dall'alleanza con il regime, nel timore che le teoriche rivendicazioni dell'antifascismo contro gli accordi del 29, pensate che uno dei più cattivi sarebbe stato Garosci, per quelli di voi che lo conoscono, uno di quelli che faceva più paura, che nel 36 aveva scritto delle cose tremende, dicevo, c'era questa paura contro queste teoriche rivendicazioni dell'antifascismo che si potessero tradurre nella perdita della condizione di privilegio sanzionata dai patti lateranensi. I dirigenti della Curia Romana, diversi anche per formazione culturale e per provenienza burocratica, faccio un esempio: da una parte i prelati provenienti dal gruppo di origine sociale più modesta, più popolare del seminario romano, dall'altra i monsignori più legati al cattolicesimo borghese della Lombardia e del Veneto e alle esperienze del movimento cattolico. Da una parte gli epigoni della tradizione diplomatica di Leone XIII e di Rampolla, che aveva faticosamente attraversato la bufera antimodernista, dall'altra i residui della curia di Papa Ratti, che Pacelli aveva rapidamente e silenziosamente trasformato. Al vertice due personalità di notevole rilievo, ma assai più profondamente diverse di quanto non si creda, Domenico Dardini e Giovan Battista Montini, cercano negli anni fra il 42 e il 44 di tenere aperta più di una strada, di non impegnare il peso anche internazionale della sede apostolica prima di avere una visione abbastanza chiara dei possibili esiti della guerra di liberazione. Cioè, in sintesi, quello che io voglio dire è che la storiografia più recente non ha dimostrato una conoscenza approfondita del mondo ecclesiastico. Cioè, si è fatto un tutt'unico di un mondo ecclesiastico che non solo non è un tutt'unico, ma che è lacerato da conflitti all'interno e molto più profondi di quello che non vediamo. E chi ha un minimo di conoscenza del mondo ecclesiastico sa che battute simpatiche come quella di Pastorelli oggi dopo la relazione di Monticone in ambienti della Segreteria di Stato non ci sono, non si danno, cioè è tutto molto coperto, molto, e quindi ci sono delle letture dei documenti che vanno fatte con molta più profondità di quanto non si sia stato fatto finora. Affermazioni come quella di Bacebozzo, cito: la formula De Gasperiana esponeva il Partito Cristiano in forma strettamente subordinata e strumentale rispetto alla gerarchia ecclesiastica. O come quella di Scoppola, la Democrazia Cristiana non nacque nel 1943 come partito della Chiesa, quindi sono due posizioni, come vedete, antitetiche, devono essere dimostrate con ben altra documentazione di quella utilizzata da questi illustri studiosi. Documentazione che inoltre, pure quella da loro utilizzata, a mio avviso è passibile di letture e interpretazioni maggiormente fondate sul piano filologico. Se infatti vi sono dichiarazioni, distinzioni ed episodi sull'autonomia di De Gasperi dal Vaticano, anche se per esempio la ricostruzione dell'operazione Sturzo fatta da De Rosa sembra ridimensionare le iniziative e il ruolo di Sturzo nell'avvenimento, dicevo, se vi sono quindi certamente degli episodi che per esempio Scoppola sottolinea molto bene sull'autonomia di Gasperi dal Vaticano, vi è anche una pratica costante di De Gasperi diretta a giustificare e a richiedere il massiccio intervento ecclesiastico, e per intervento ecclesiastico intendo sia quello della Santa Sede che quello dei vescovi italiani, a favore della Democrazia Cristiana sul piano elettorale e a favore della leadership democristiana all'interno del partito. Questioni come quella del rientro in Italia di Luigi Sturzo, dell'eliminazione della sinistra cristiana e della lotta contro Dussetti, si pensi solo alla lettera di Gasperi a Pio XII degli inizi del 51, ma erroneamente datata dalla figlia al 52, fanno piuttosto pensare ad una strumentalizzazione dei vertici ecclesiastici da parte di De Gasperi, più che a una linea di autonomia. L'unità politica dei cattolici diventava l'altare sul quale sacrificare ogni dissenso ed ogni opposizione. Ed è difficile condividere l'affermazione, ancora di Scoppola, che la Santa Sede sarebbe, cito, rimasta del tutto estranea al rilancio politico di De Gasperi. È evidente che in Vaticano il Partito Popolare non aveva lasciato un buon ricordo. Ai suoi uomini si guardava con scarsa fiducia, inferiore a quella che si aveva in un Orlando o un Federzoni. Cito sempre Scoppola. Il memorandum recentemente pubblicato che il Conte Dalla Torre nel novembre del 42 invia al Dipartimento di Stato americano non mi pare contraddica quanto detto sin qui. Lo stesso Dalla Torre ha notato nelle sue memorie che per compilare quel documento si rivolse a De Gasperi. Il documento rappresenta dunque il punto di vista di De Gasperi del 42 assai più che quello del Vaticano. Allora, io qui farei due ragionamenti. Un primo, che mi sembra evidente, sì, se quel documento rappresenta il punto di vista di De Gasperi, però se il Vaticano fa proprio il punto di vista di De Gasperi, significa che fra De Gasperi e il Vaticano questo iato non c'era. Ma accanto a questo, direi che l'amico Scoppola, nella lettura delle memorie di Dalla Torre, si è fermata alla riga 15, ma se fosse andato alle tre righe successive avrebbe letto questo che io vi leggo. Mi rivolsi a De Gasperi. La memoria fu pronta ben tosto, scritta da De Gasperi. Soltanto era omesso il suo nome e quanto poteva fare, un uomo come lui. E Dalla Torre dice che ovviamente De Gasperi non mise il suo nome nell'elenco delle persone da prendere in considerazione. E su questa base Scoppola dice, lo vedete, tant'è vero che il Vaticano fa i nomi di altri ma non fa il nome suo. Però solo che aggiunge Dalla Torre, e questo lo aggiunsi io. E dopo aver detto questo, dice, la descrizione di fatti e di uomini fu accolta da Myron Taylor e portata con sé, e seppi poi che fu letta attentamente da Roosevelt, da Churchill e da Daladier. Nel confrontare quello scritto con quanto accadde poi dopo la liberazione, mi accorsi che se ne era tenuto conto soprattutto per ciò che riguardava il Cide De Gasperi. Quindi direi che è tutto il contrario, cioè il documento cosiddetto De Gasperi viene modificato dalla Torre con l'inserzione del nome di De Gasperi, e dalla Torre dice: tanto peso ebbe quel documento che, proprio per quello che riguardava il Cine De Gasperi, io ne ebbi la prova successiva. Ora, voi mi direte, però, il documento che Scoppola utilizza e che è quello pubblicato dalla Aga Rossi, scusate queste note un po' filologiche, cercherò di tagliar conto, pubblicato dalla Aga Rossi e ripubblicato da Dinolfo, probabilmente non è quello. Cioè, probabilmente esistono due versioni del documento dalla Torre. Una, che è questa che De Gasperi detta dalla Torre e che poi deve essere fuggita perché è in copia in America, non è in originale. L'originale non è stato trovato. E poi l'originale, che deve essere quello che poi dalla Torre ha mandato lui, in cui ha aggiunto il nome di De Gasperi. Quindi, dirvi con questo che bisogna starci molto attenti appunto a dire che la Santa Sede era rimasta del tutto estranea al rilancio politico di Gasperi, se voi pensate che questo documento è del novembre del 42. E la Torre dice che nel novembre del 42, quindi la Santa Sede fa il nome di De Gasperi agli americani. Quindi questo già mi sembra un punto abbastanza preciso. Andrei un momento avanti e poi tornerei indietro. Una recente ricerca di Renato Moro, che secondo me ha molti pregi, ma da questa ricerca direi esce fuori una connotazione, almeno per me, che sono un ignorante di storia del movimento cattolico, abbastanza nuova. Cioè, lui dice, se è vero che la DC trasse gran parte dei suoi quadri dirigenti dalla fuce dei laureati cattolici, è meno noto, ma altrettanto significativo, il fatto che numerosi elementi provenienti dagli universitari e dai laureati cattolici animarono anche altre formazioni politiche minori, come quelle dei cattolici comunisti e quella di Cristiana Sociale di Gerardo Bruni. Questo sempre per dirvi come non è vero che come sia vero che il Vaticano in quegli anni lì ha una strategia articolata, cioè che i suoi uomini vagano in varie formazioni, poi su questo torneremo. Alcuni nuovi documenti, del resto, carte di polizia, documenti diplomatici, carteggi privati, inducono a condividere l'opinione che da parte ecclesiastica, fra il 43 e il 44, ben poco fosse predeterminato. E che lo stesso processo formativo della nuova generazione non sfociava naturalmente nell'unità politica dei cattolici. Posizioni come quelle di Tardini, di un Ottaviani, di un Giuseppe De Luca e forse di uno stesso Pio XII, la cui formazione personale era del resto ampiamente omogenea al mondo ecclesiastico romano come quella di questi ecclesiastici, non possono essere allegramente liquidate, come è stato fatto, come rifiuto dell'unità dei cattolici per tenere aperta la porta ad un'alternativa di destra della DC, mentre orientamenti come quello di un Montini in sintonia con De Gasperi non possono essere apologeticamente definiti come tendenza all'unità per bloccare posizioni di destra che finirebbero con il portarsi appresso il grosso del mondo cattolico. Cioè, a me sembra un'interpretazione un tantino manichea questa, no? Buoni e cattivi, destra e sinistra. Cioè, secondo me, il discorso è molto più sfumato e molto più articolato. Quindi, io quello che vi propongo e che cercherò quantomeno di iniziare in questo nostro incontro è una rilettura di questo periodo, una rilettura della documentazione pubblicata, di alcuni documenti nuovi di cui vi darò lettura, inediti, e incentrati su alcuni momenti chiave, secondo me, per verificare il rapporto DC-Vaticano. Cioè, il problema della leadership, della nascita della leadership di De Gasperi, poi la condanna della sinistra cristiana, la nascita delle ACLI, la votazione dell'articolo 7 della Costituzione, l'operazione Dossetti e l'operazione Sturzo. Cioè, io credo che questi siano cinque punti da approfondire per verificare, non dico che poi la verifica porti ad una o all'altra soluzione, però quantomeno vanno verificati approfonditamente, perché senza la verifica di questi, a mio avviso, cinque momenti chiave nel rapporto di C-Vaticano, tutto il resto diventa così un'opinione personale. Ma torniamo al problema della cosiddetta continuità del regime autoritario che il Vaticano avrebbe patrocinato, della leadership di De Gasperi e della pretesa ostilità e diffidenza della Santa Sede nei confronti di De Gasperi e della DC. Queste sono le posizioni di una parte della storiografia. Problema della leadership di De Gasperi. Della continuità. Uno dei cavalli di battaglia della storiografia più recente è questa famosa lettera di Gedda Badoglio, scoperta dal giovane Sala e pubblicata alcuni anni fa, in cui Gedda propone a Badoglio in sostanza di sostituire l'Azione Cattolica Italiana a tutte le organizzazioni giovanili fasciste, no? E qui si dice, ecco, guarda questo qui, Gedda, che naturalmente vuole per conto del Vaticano, assicurare la continuità sostituendo ai Balilla i ragazzini dell'Azione Cattolica e via dicendo. Sì, certamente questa è una lettera importante, però secondo me sta grande scoperta non è, cioè secondo me va un tantino ridimensionata, perché se il nostro amico Sala avesse letto i giornali dell'epoca si sarebbe accorto che quello che Gedda dice nella sua lettera, che è dell'11 agosto, era già stato scritto 10-12 giorni prima da Monsignor Busti, direttore dell'Italia di Milano, il 30 di luglio. E quindi chiaramente questa era una strategia di una parte del mondo cattolico, una parte della gerarchia. Quindi non è Gedda come tale, quindi Gedda di destra cattivo che vuol fare la continuità con Ottaviani cattivo, la vuol fare anche lui. È una cosa diffusa. Monsignor Sala, no, scusate, Sala è il giovane, Monsignor Busti scrive nell'Italia del 30 luglio del 43: con un gesto di saggia politica il maresciallo Badoglio ha provveduto a che i varianti assistenziali, educativi, sportivi del cessato regime potranno continuare a funzionare a beneficio del paese. Penso, il gesto fa tutta una cosa, poi dice: tutti sanno del resto che tali attività avevano in Italia una lunga tradizione che ne rivelava le origini etiche, diciamo pure cristiane. Quindi non erano di origine fascista, ma erano di origine cristiana, se ne erano impadroniti questi fascisti, in sostanza. Quindi, mentre quindi ci rallegriamo, ci auguriamo che esse possano ritornare nel loro alveo naturale. E qui va avanti a dire questo non perché abbia una grande importanza, ma per dirvi che questo documento di Gedda non è poi così importante se lo si inserisce in un quadro. Cioè è un movimento che c'era, quindi non lo sopravvaluterei come è stato fatto. Non sto a sorvolare su alcune cose che sono abbastanza note. Cioè, voi sapete che dall'intervista di Andreotti e dagli Art Documents di Saint-Siège sono risultati una serie di posizioni del Vaticano sulla futura leadership dell'Italia. Andreotti dice che in casa Spataro nel marzo del 43 De Gasperi pensa a Vittorio Emanuele Orlando. Poi c'è la famosa documento della Santa Sede a Washington che fa i nomi di Orlando Gaviglia e Federzoni, che però tutti si dimenticano di dire che non è mai partito questo documento. Cioè il documento esiste, però non è mai stato spedito. Quindi seppure resta un'interna corporis della Santa Sede, però la Santa Sede non ha mai fatto, come dicono alcuni, agli americani i nomi di Orlando Gaviglia e Federzoni, destra, continuità, eccetera, invece di quello buono di De Gasperi, perché non gliel'ha mai fatto. Mentre il nome di De Gasperi nel settembre del 42 gliel'ha fatto come il Dalla Torre. Ancora c'è sempre mi pare Andreotti parli di un colloquio Bonomi Dalla Torre dell'11 giugno del 43 in cui si fanno i nomi di Caviglia, Badoglio e De Gasperi. Quindi il nome De Gasperi compare in un incontro semi-ufficiale fra Bonomi e Dalla Torre. Ancora, nel dicembre del 43 Tardini stesso fa il nome di De Gasperi a Taylor, fra altri nomi un tantino, direi, senza grande entusiasmo, ma lo stesso Tardini, che viene considerato un nemico di De Gasperi, in questo documento di dicembre 43 dice: ho già citato le ragioni per cui un fuoriuscito non sembrerebbe l'uomo adatto. In alcuni ambienti De Gasperi, ex deputato e leader del Partito Popolare, è il nome che viene fatto. Egli è considerato colto, serio, attivo e equilibrato. Ma siccome non ha mai avuto esperienza di partecipazione al governo, non è possibile essere anticipatamente certi che gli riesca. In ogni modo bisognerebbe sentire i partiti, quindi fa un cenno a De Gasperi, non è entusiastico, però non mi sembra neppure negativo, anzi dando dei giudizi abbastanza positivi. Ma quello che, quindi questo per sfatare un po' questa impressione che ci fosse questa ostilità del Vaticano, della Curia e anche di un gruppo nei confronti di De Gasperi. Ma secondo me il discorso è ancora più articolato. Scoppola scrive, cito ancora, l'idea largamente diffusa e prevalente negli ambienti vaticani alla vigilia e subito dopo il 25 luglio, vi pregherei di tener conto delle date, era piuttosto quella di una sorta di continuità di un regime autoritario senza più Mussolini, che avrebbe avuto nel mondo cattolico e nelle sue organizzazioni il suo punto di forza. L'idea di una successione cattolica al regime acquista una maggiore forza e concretezza, eccetera, eccetera. Naturalmente a conforto di questo si porta anche il documento di Jed. In effetti, però, se noi guardiamo i documenti diplomatici di quegli anni lì, vediamo che la situazione sembra un po' più sfumata. In un rapporto al Ministero del 3 agosto del 43, pochi giorni dopo il 25 luglio, il facente funzione di ambasciatore, cioè quello che di fatto farà l'ambasciatore in tutto questo periodo in cui non viene nominato per ovvie ragioni un ambasciatore, ma rimane come incaricato d'affari, Babuscio Rizzo, scrive: intanto nei giornali cattolici cominciano a affacciarsi tendenze verso un'organizzazione politica, qualcosa come la creazione di un nuovo partito che riunisca le forze attuali, le forze attinenti ai principi cristiani. Per ora in Vaticano si discutono piuttosto le condizioni preliminari per la formazione di organismi politici nei quali i cattolici possono riversare la loro forza. Quindi mi sembra che in Vaticano non fosse assolutamente chiaro, non ci fosse assolutamente idee chiare all'indomani del 25 luglio e, come dice Scopola, subito dopo il 25 luglio la sorta di continuità. No, in Vaticano c'è l'idea di dare vita a organismi politici. Quindi mi sembra che da questo e da un successivo documento di cui adesso vi darò lettura si ha l'impressione che in Vaticano ci fosse piuttosto l'idea di non legarsi a un unico partito. No? Cioè che in quel momento fosse prevalente questa cosa. Ma e naturalmente la storiografia dice sì, ma doveva essere il partito della continuità, il partito della destra, il partito degli ottaviani, eccetera, eccetera. Un documento della Questura di Roma, un documento riservato della Questura di Roma, che viene trasmesso, chiamiamolo della Questura di Roma, del servizio segreto di allora, viene trasmesso dalla Questura al Ministero. Adesso ci arrivo, un momento. viene trasmesso dalla questura al Ministero degli Esteri e il Ministero degli Esteri lo manda all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede perché l'ambasciata gli dica che peso ha questa informativa. Il documento è del 13 agosto del 43, quindi come vedete siamo all'indomani del 25 luglio. Secondo questa notizia dei servizi di spionaggio, il 9 corrente, il 9 agosto alle ore 16, ci sarebbe stata nella città del Vaticano una riunione segreta di oltre un centinaio di persone per uno scambio di idee circa la costituzione di un partito politico che dovrebbe sorgere in luogo dell'antico Partito Popolare. Vi salto, questo nuovo partito informerà la sua azione ai principi democristiani, godrebbe l'appoggio delle maggiori autorità della Segreteria di Stato, quali Sua Eccellenza Monsignor Domenico Tardini e Sua Eccellenza Monsignor Giovan Battista Montini. Si dice che tale movimento sarebbe anche approvato dal Pontefice. Ma udite adesso, a segretario politico sarebbe stato scelto il dottor Gerardo Bruni, scrittore della Biblioteca Vaticana. Naturalmente viene da ridere a tutti quest'idea che in Vaticano si cerchi di realizzare la Democrazia Cristiana facendo segretario Gerardo Bruni. Al Vaticano si sa bene che il comunismo ha fatto molti proseliti ed è principalmente per combattere la teoria comunista che si vorrebbe dar vita a un partito democratico sociale, però non è così pazza l'idea, perché dice il fatto di dare un'impostazione di tipo democratico sociale, quindi Bruni, non è un'idea peregrina, ma lo è al fatto perché in Vaticano si sa bene che il comunismo ha fatto molti proseliti e quindi per combattere le teorie comuniste bisogna combattere utilizzando delle persone. L'ambasciata che cosa risponde? Dice, la notizia fiduciaria dagli accertamenti effettuati non ci è confermata, però ci è confermato che ci sarebbe state invece delle riunioni in quegli stessi giorni per iniziativa dell'avvocato Spataro. Spataro è un nome, alla riunione, secondo i servizi di spionaggio, avrebbero partecipato Mario Cingolani, Umberto Tupini, Mario D'Amelio, con direttore del Banco di Santo Spirito, e delle banche fin dall'origine sono mischiate alla Democrazia Cristiana, l'avvocato Carlo Flamedio, il dottor Carlo Borromeo, il dottor Giovanni Borromeo, il cavalier Umberto Brilli, il cavalier Cesare Adami e il commendator Pietro Campilli. Ora, non è tanto importante in sé questo documento, dove molto probabilmente è infondata questa idea che il Vaticano e le gerarchie volessero fare segretario del C. Gerardo Bruni, però che cosa significa? Significa che in effetti in Vaticano non c'era nessuna certezza e che si era disposti a dare aiuto a tutti i vari gruppi, quindi ai gruppi di Gerardo Bruni, come ai gruppi potevano essere di maggiore collegamento con il fascismo, con la continuità, e ai gruppi anche della Democrazia Cristiana. Ma perché io vi dico che è importante Spataro? Perché guardate che quando al momento in cui la Democrazia Cristiana impedisce che il Movimento dei Cattolici Comunisti faccia parte del CLN di Roma, duramente, gli unici che lo difendono chi sono? Spataro e Campilli. Quindi questo per dirvi che non c'è questa monoliticità, ci sono delle divisioni. E quindi lo Spataro che da queste notizie, soprattutto dell'ambasciata, avrebbe coagulato, probabilmente... E non vi dimenticate che c'è un adesso semmai ci torniamo più tardi, ma non vorrei dimenticarmela, forse non facciamo in tempo, c'è una intercettazione telefonica fatta fare dalla Repubblica Sociale, se non sbaglio, in cui proprio Spataro dice in una telefonata, aspettate che forse l'ho perso, scusate la mia confusione, c'è una telefonata di Spataro registrata in cui Spataro con uno sconosciuto il 24 agosto del 43 dice vorrei che fossero rappresentanti, dice un comitato di giovani universitari che dovrebbe ripetere in piccola organizzazione dei giovani, siccome vorrei che fossero rappresentanti le diverse correnti vorrei sapere un po' da te che ne pensi di un certo Rodano. E Spataro dice che i cristiani, insomma, parla abbastanza bene di Rodano, cioè chiaramente all'interno di questo gruppo che rifonda la DC ci sono delle notevoli divisioni e le carte Spadaro purtroppo sono ancora inaccessibili, ma probabilmente dalle carte Spadaro possono uscire fuori delle cose interessanti. Non dimenticate del resto che Giuseppe Mira, esponente dell'IGAS, che me lo ha confermato poi del resto, a Giuseppe Mira viene fatto rivedere prima della pubblicazione uno degli opuscoli dei Cristiano Sociale. Cioè c'è tutto un giro all'interno del Vaticano, del mondo cattolico del Vaticano, che si muove su un binario articolato. Quindi, a mio avviso, non c'è una posizione così netta della Santa Sede. Vedo che il tempo corre. Ecco, devo dire che quindi mi aumentano, sulla base di questi documenti, le perplessità di fronte a posizioni come quella appunto di De Gasperi, che in un promemoria successivo all'8 settembre del 43, quindi siamo a pochi, qualche mese dopo, scrive: ammesso che in teoria, anche in teoria, che i cattolici abbiano libertà di costituire diversi partiti politici, è necessaria per l'eventuale necessità della Chiesa cattolica che almeno uno dei partiti sia forte e decisivo. Quindi chi è che spinge per l'unità politica dei cattolici è De Gasperi, e spinge sulla testa delle destre e delle sinistre, di tutti, non gli interessa. Cioè, questa interpretazione di De Gasperi, che vuol spingere verso l'unità dei cattolici perché la Santa Sede abbia un approdo, la Chiesa abbia un approdo democratico, a me mi sembra un tantino poco fondata. E quanto del resto dice lo stesso Scoppola, mi pare, a proposito dei patti lateranensi, mi pare che dica, scusate, perché qui si sono, no, ma ce l'ho, aspetta un momento, volevo dire, c'è una cosa di Gasperi che è molto intelligente, che però, perché, un documento sempre dell'ambasciata presso la Santa Sede del 26 agosto del 43, ecco qua, no, scusate, era la mia cosa, dice le stesse, è abbastanza interessante, attribuisce alla Santa Sede un ragionamento che è lo stesso che De Gasperi fa in un articolo del Popolo del 23 gennaio del 44. Dice l'incaricato d'affari: per rendersi esattamente conto della fisionomia che un partito cattolico potrà assumere nel prossimo futuro, è necessario intanto precisare l'atteggiamento della Santa Sede di fronte al cattolicesimo politico italiano. La Santa Sede ritiene ormai la sua posizione nei confronti della politica interna del Paese del tutto diversa da quella esistente prima dei patti lateranensi. E quindi qui fa tutto un discorsino per dire che sono i patti lateranensi che hanno cambiato. Ora, è abbastanza interessante come queste stesse frasi, adesso non vi sto a leggere, magari il nota lo citerò integralmente, queste stesse frasi che Babuscio Rizzo riporta, come sentite, in segreteria di Stato, sono poi ripetute da De Gasperi in un articolo del gennaio successivo. Questo non che abbia una grande importanza, ma importanza significa che non è che ci fosse questo, poi, questo divario fra le posizioni della segreteria di Stato e le posizioni di De Gasperi. Ancora, un documento, uno dei documenti americani del 27 giugno del 47 riferisce di un incontro fra La Malfa e Adams, che era l'incaricato per gli affari sociali dell'ambasciata americana e professore universitario di storia, persona abbastanza influente, e nel fare il rapporto al suo governo, Adams dice: La Malfa ha citato il fatto che nel 1943 De Gasperi e il Vaticano avevano chiesto a lui e ai democratici di unirsi alla monarchia e ai fascisti antimussoliniani tipo Dino Grandi e Giuseppe Bottai per formare un governo di coalizione. Questo per evidenziare che c'è un abisso fondamentale tra De Gasperi e La Malfa. Io adesso, purtroppo, quando io ho preso conoscenza di questo questo documento, che peraltro era pubblicato da anni, perché mi sono messo a preparare questa relazione per Trento, la Malpa era già morto, quindi non gli ho potuto chiedere conferma. Però qui c'è un fatto molto preciso, cioè la Malfa dice che furono De Gasperi e il Vaticano che nel 43 chiesero a lui e ai democratici di unirsi alla monarchia e ai fascisti tipo Dino Grandi, Giuseppe Bottai, quindi il discorso della continuità, per formare un governo di coalizione. Questo per evidenziare che c'è un abisso fondamentale fra De Gasperi e la Malfa. Questo è un diplomatico americano di notevole rango il quale scrive al suo governo, cioè non è un pettegolezzo di salotto. Ecco, quindi io qui bisognerebbe andare un momento a vedere tutto questo, era vero o non era vero, allora nel discorso della continuità, nel preteso discorso sì. della continuità c'entra pure De Gasperi. Ecco, tutto, vi dico molto sinceramente, io non ho nessuna certezza, però metto lì, vi metto lì tutti quegli elementi e quei documenti che hanno fatto venire a me i dubbi. Ho ancora, c'è un documento dell'OSS, cioè del servizio segreto americano, del 31 marzo 45, siamo in un periodo successivo, crisi Bonomi, secondo il servizio segreto americano il Vaticano avrebbe suggerito ad Alcide De Gasperi di evitare un'immediata investitura al posto di Bonomi per non far parlare di una crisi pilotata dal Vaticano. Cito, la Santa Sede vuole evitare ogni interferenza con le autorità alleate che stanno seguendo da vicino le vicende del governo. Quindi, seppure ci sia stata al momento della crisi Bonomi, diciamo, una distanza della Santa Sede, questo documento spiega qual era la posizione della Santa Sede, che è lei a cercare di convincere De Gasperi a aspettare un momento. Ancora. Sulla pretesa ostilità di Tardini a De Gasperi c'è ancora un documento di Kirk al segretario di Stato americano, dopo Kirk era quello che sostituiva Myron Taylor, che dopo un incontro con Tardini riferisce: Tardini mi ha detto di non essere molto preoccupato della crisi perché le masse rimangono inerti come sempre nei confronti dei partiti. Lei ha capito tutto. Comunque sarebbe importante che gli alleati sostenessero il tentativo di De Gasperi e lo aiutassero a non fallire col suo governo. De Gasperi è onesto, abile, se fallisce lui la gente perderà anche le ultime illusioni. Quindi, quantomeno degli elementi per il fatto che, sul fatto che tutte queste ostilità nei confronti di De Gasperi e quindi questa minaccia anche di un secondo partito cattolico voluto da Tardini, Ottaviani, eccetera, a me sembra da prendere con le molle. Niente, un'ultima macchia di colore, una cosa che solo perché mi è capitata fra le mani mentre preparavo questa relazione ve la leggo, è ancora un documento, un telegramma del 19 febbraio del 48 dell'ambasciatore Dan al Dipartimento di Stato del 19 febbraio del 48, questo solo per i legami Vaticano DC. Dice che la Democrazia Cristiana invierà il dottor Pietro Ruffini in America il 21 febbraio per raccogliere i fondi per le imminenti elezioni. Ma la cosa divertente è questa: i fondi raccolti verranno depositati su un conto speciale dell'Istituto per le opere di religione presso la National City Bank. Cioè praticamente il Vaticano, che sarebbe stato quello che non, secondo Scoppola non c'entrava niente con la DC, non voleva che la DC crescesse, però gli faceva da banchiere per i soldi che venivano raccolti per finanziare elezioni politiche. Siamo in un momento successivo, però insomma direi che bisognerebbe andarci un tantino piano con le affermazioni. Veniamo al punto sinistra cristiana. Ecco, qui secondo me il punto della sinistra cristiana cattolici comunisti è un altro dei punti chiave per capire il rapporto De Gasperi-Vaticano. Perché qui, perdonatemi l'espressione, è il killer dei cristiani sociali è proprio De Gasperi, il quale spinge perché il Vaticano ne elimini in sostanza, dopo tutte quelle lunghe trattative con Ottaviani, con Ottovani, eccetera. E io ho anche un sospetto, basato su un paio di documenti di cui poi dopo vi dirò, che probabilmente in un possibile incontro fra Montini e Togliatti di quel periodo, lo stesso Montini avrebbe pregato Togliatti di prendere un tantino le distanze dai cattolici comunisti che davano fastidio a De Gasperi. È un'ipotesi questa molto fantasiosa, però un paio di indizi su questa cosa ci potrebbero essere, e adesso poi dopo ve li riferirò. Certamente, ecco, torno qui, è interessante la posizione di Spataro. Primo, dicevo, Spataro è l'unico che cerca di appoggiare l'ingresso nel CLN dei cattolici comunisti. 25 agosto del 43, allora chiede a questo suo interlocutore, che non si sa chi è perché la polizia registra la telefonata ma non scopre chi è, allora gli dice: vorrei sapere un po' da te che ne pensi di un certo Rodano. E allora il signore dice: è molto di sinistra. E Spataro dice: sì, lo so, è di quella corrente dei comunisti cristiani. Il signore dice: sì, li ho incontrati in galera, il capo era un certo Tatò. E insomma va avanti così. E dice Spataro: i cristiano sociali non hanno mai avuto tendenza politica, non si sono mai differenziati da noi. Tanto è vero che sono venuti tutti da noi, escluso Bruni. Invece questi giovani, che sono molto più giovani, hanno creduto di conciliare questa teoria comunista con i sentimenti cristiani. Sono dei simpatici ragazzi, lo so, ho passato lunghe ore con Tatò. Questo per confermarvi sempre il discorso che, secondo me, all'interno del Vaticano c'era un gruppo che, per la paura di sposarsi ad un partito solo, secondo me la paura era quella, la paura di che la Chiesa si ricollegasse a un partito solo, voleva tenere aperte tutte le strade. E per tenere aperte tutte le strade andavano bene tutti, andavano bene Gerardo Bruni, andava bene Rodano, andava bene Ossicini, andavano bene quelli di destra, andava bene De Gasperi. Quindi io, la mia impressione è che non ci sia, che il Vaticano sia molto più abile e molto più sottile di quello che non appare. Veniamo a un altro punto, la famosa lettera, cioè no, la famosa relazione che di Andreotti, che non si sa come finisce in mano al servizio segreto americano. Voi sapete che c'è una relazione scritta da Andreotti il 12 ottobre del 44 sui cattolici comunisti, in cui riferisce dei suoi rapporti con Pio XII e del ruolo da lui svolto di trait d'union fra Pio XII personalmente e il gruppo Sicini, Rodano e C. E naturalmente ricorda che ci fu un momento in cui sembrava che la polizia volesse arrestare tutto il gruppo. Allora Andreotti scrisse a Pio XII, disse a sua santità che ero d'accordo che bisognasse parlare contro il comunismo, ma non in quell'occasione. Pio XII non fece cenno del problema nel suo discorso, e qualche giorno dopo, durante un'udienza d'Azione Cattolica, quando mi avvicinai per il bacio della mano, mi sussurrò: siamo stati discretissimi, vero? Poi disse di essersi personalmente interessato per la liberazione dei giovani e che cercassimo insieme di riportarli sulla giusta via. Quindi, come vedete, per esempio, è molto interessante la posizione personale di Pio XII nei confronti dei cattolici comunisti. E qui appunto torna, secondo me, tutto il discorso che ho appena accennato e non posso approfondire, delle correnti curiali e della formazione culturale di Pio XII. Cioè, fra persone come Tardini, Ottaviani, Giuseppe De Luca e in un certo senso Pacelli, e persone come Montini, Della Torre e De Gasperi, c'era veramente una profonda diversità di formazione culturale. Quindi erano due gruppi che con molta difficoltà si sarebbero intesi. Cioè io non mi dispiace di dover dire, se mi sembra proprio io debba fare il difensore di Pio XII, che devo dire ho in più di un'occasione, credo che il professor Repke non se lo ricorda, ma a un convegno a Roma nell'Istituto Goethe avevamo anche una piccola polemica sul concordato del Reich, sul ruolo di Pacelli. Però devo dire che secondo me Pacelli l'hanno fatto più nero di quello che era in questo periodo qui, e secondo me poi anche nel periodo precedente. Insomma, voi sapete che c'è una lettera di Ossicini, ho ancora un po' di tempo, sì, di Ossicini ad Andreotti del 24 ottobre del 43, quella in cui lui gli dice perché non vuole entrare nella DC. E questa lettera dice così: quello che è chiarissimo, che ho chiarissimo, è che non me la sento assolutamente di partecipare all'esperienza DC. Tu lo sai e me lo hanno ripetuto nel 38 Spataro, nel 35 Tupini e lo stesso De Gasperi. e questo si collega al discorso di Alberto stamane, la DC non è l'erede del Partito Popolare, non vuole essere come esso fu un partito di cattolici, di opposizione e riformista. Vuole essere un partito di potere sulla base dell'unità dei cattolici, il partito di tutti i cattolici, per sostituire il regime fascista, per evitare ogni sconvolgimento. E qui torna col discorso alla Malfa. Sai bene chi vuole questo, ed io questo non lo accetterò mai per ragioni politiche ed ancor più per ragioni religiose. Ora, l'amico Scoppola interpreta questa lettera dicendo sai bene chi vuole questo, e dice che chi vuole questo è Pio XII. Se non che lo scrivente e il destinatario, da me interpellato, Sicilia Andreotti, mi hanno assolutamente detto che chi è De Gasperi, non è Pio XII. E questa è una differenza abbastanza notevole. Cioè, sia Sicilia nello scrivere, sia Andreotti nel ricevere, e non credo che poi Andreotti possa essere accusato di antidegasperismo, mi hanno confermato che il chi non è Pio XII, che infatti non si capisce poi bene che cosa gli interessasse a Pio XII di fare una DC diversa al PP. Cioè, mi sembra che Pio XII fosse... Non lo voglio difendere, però un pochino più distaccato da queste cose qui, e quel chi è De Gasperi, e allora quel chi assume tutto un altro valore da quello che Scoppola gli dà interpretando il chi come Pio XII. E ancora, gli stessi documenti di Paronetto che Scoppola ha utilizzato, secondo me consentono una lettura completamente diversa da quella che lui dà, sempre collegata, perché certamente se uno crede che il chi sia Pio XII chiaramente legge tutto in un altro modo, ma lo stesso Paronetto documento che mi pare lui mandi a Cicognani, se non vado errato, perché c'è una voce. Sì, no, aspettate, dunque. Mi pare che fosse... No, questo è un appunto di Paronetto. Ecco, e questo lo stesso Scoppola, in questo lo dice, però e finisce per metterlo in contrasto con quello che lui sostiene. Cioè, l'ipotesi di un intervento della DC sul Vaticano contro la sinistra cristiana per ottenere la sconfessione sembra confermata da un documento inedito. Si tratta di un lungo appunto strettamente confidenziale da recente condanna della sinistra cristiana. Il documento non è datato, né con lo scritto si apre. Pur non contenendo... Ecco, esaminando il contenuto dell'articolo dell'Osservatore Romano di condanna, Paronetto sottolinea nello scritto che i principi e le tendenze della sinistra cristiana sono rifiutati nel loro insieme senza distinzione. Non si indicano, cioè, errori e punti convergenti, ma è una condanna in blocco. È un caso che a memoria dello scrivente è senza precedenti, in quanto si è sempre usato indicare, sia pure sommariamente, i punti erronei. Cioè, in sostanza, in via di fatto, la sinistra cristiana aveva avuto una forte affluenza di iscritti. Informazioni non facilmente controllabili, aggiunge Paronetto, affermano che alle vigilia di Natale esponenti democratici cristiani avevano fatto avere in Vaticano una documentazione contro la sinistra cristiana. Sta di fatto che in vari ambienti della DC si parlava da tempo di una documentazione schiacciante contro la sinistra cristiana. Le stesse informazioni riferiscono che il Santo Padre sarebbe stato male impressionato per l'atteggiamento troppo scoperto di lotta contro la sinistra cristiana, cioè addirittura il Papa si sarebbe stupito della durezza democristiana contro la sinistra cristiana. Per questo motivo il Santo Padre avrebbe evitato un'esplicita condanna della sinistra cristiana in occasione del radiomessaggio da Lizio, come invece molti si attendevano. Senza fermarmi ancora a lungo su questo punto, secondo me questo della sinistra cristiana è un punto che abbastanza importante nel documentare che in effetti quando è necessario è De Gasperi per il tramite di Montini che strumentalizza il Vaticano, perché in effetti probabilmente senza questo massiccio intervento della Democrazia Cristiana la sorte della sinistra cristiana sarebbe stata probabilmente diversa, probabilmente, questo non dire che facciamo delle cose, però certamente questo intervento, e addirittura Paronetto dice che perfino, che era talmente stato pesante questo intervento, che persino Pio XII si era quasi scocciato, il che credo che per turbare Pio XII, che certamente di anticomunismo, di iniezioni di anticomunismo non ne aveva bisogno, è certamente la documentazione, che poi doveva essere di tipo spionistico più o meno, non lo so che documentazione potesse essere, doveva essere pesante. Quindi direi che l'unità politica dei cattolici è De Gasperi certamente che la persegue. Allora perché persegue l'unità politica dei cattolici? Beh, certamente perché è l'unico modo attraverso il quale la Democrazia Cristiana può utilizzare l'apparato della Chiesa. Cioè, se i partiti cattolici di destra, di sinistra, di centro fossero stati più di uno, chiaramente la Santa Sede non avrebbe autorizzato le organizzazioni ecclesiastiche del laicato o del clero ad impegnarsi come avverrà poi. Quindi Gasperi lucidamente capisce che l'unico modo, e del resto il partito, la Democrazia Cristiana, non aveva, come aveva il Partito Comunista, un'organizzazione, sia pure clandestina, che era rimasta in piedi. Ne aveva la mitologia del Partito Socialista, che sulla base del mito prese tutti i voti che prese alle elezioni, no? Quindi chiaramente legato in questo lucidissimo capisce che c'è bisogno dell'appoggio della Chiesa assoluto. Quindi direi che il discorso Contantino capovolto non è la che non è il discorso di Bacebozzo che dice che è la Chiesa che strumentalizza De Gasperi, quindi la Democrazia Cristiana è uno strumento in mano alla Chiesa. E però neppure quello di Scopo, il quale dice che in effetti la Democrazia Cristiana nasce quasi a dispetto della Chiesa nel 43. Direi che invece il discorso è diverso, che fino a un certo momento la Santa Sede non è sicura di quale strada imbroccare e quindi tiene aperte più vie. E che a un certo momento è De Gasperi che li costringe in sostanza ad appoggiarlo attraverso quelli che erano i suoi uomini, che erano Montini e Della Torre. Non mi soffermo su vari altri punti, come anche il rapporto Gedda De Gasperi, su cui pure avrei da dire. Vi dico un'ultima cosa sola su un punto secondo me abbastanza importante, che è quello, ah no, un cenno all'incontro Montini Togliatti, che forse è una delle cose più divertenti. Io non so su quale base Magister, in questo libro La politica vaticana d'Italia 43-78, abbastanza documentato, ipotizza una pressione di Montini su Togliatti perché abbandoni il partito della sinistra cristiana, e in effetti lui verifica che in questo periodo, cioè siamo nell'estate del 44, i rapporti fra Togliatti e la sinistra cristiana si raffreddano. E non dimentichiamo che il 9 luglio del 44 c'è il famoso discorso di Togliatti al Teatro Brancaccio, con l'apertura, diciamo, al mondo cattolico. Ora, da alcuni documenti americani, però non verificabilissimi, e però anche da un telegramma dell'ambasciata presso la Santa Sede al Ministero, il sospetto che un incontro fra Montini e Togliatti nel luglio del 44 ci sia stato rimane. Cioè, c'è un documento del servizio segreto americano che parla di, in data 13 luglio 44, che parla di un incontro avvenuto il 10 luglio fra Togliatti e Montini. 10 luglio. E ne parla il padre Graham anche in quel volume, Il Vaticano e il nazismo. Insomma, tutti, anche di Nolfo, dicono ma è un documento scarsamente attendibile perché c'è una classificazione, cioè il servizio segreto americano dava una classificazione dei documenti molto, molto attendibile, meno attendibile, poco attendibile. C'è una classificazione che dice non reliable. Però certamente che qualche cosa ci fosse è dimostrato dal fatto che il Ministero degli Esteri italiano dà incarico all'Ambasciata d'Italia di verificare se questo incontro c'è stato. E gli dà questo incarico nell'agosto successivo. Ora, io non credo che il servizio segreto americano passasse i suoi documenti al Ministero degli Esteri italiano. Ora, l'ambasciata, la cosa più divertente è che questo nostro ingenuissimo ambasciatore, che è sempre Babbuccio Rizzo, risponde al Ministero in data 16 agosto dicendo: L'incontro di Monsignor Montini col ministro Togliatti mi è stato personalmente smentito dallo stesso Monsignor Montini, con il quale ho avuto occasione di parlare della cosa. Questa io la trovo veramente dipinge i nostri diplomatici. Cioè, siccome Monsignor Montini ha detto che lui Togliatti non l'ha incontrato, questo gli dice, è sicuramente. Ora, proprio questo a me mi fa pensare che in effetti, probabilmente, un quale. Perché? che certamente a un certo momento Monsignor De Luca abbia svolto un'azione, questo lo dice anche la Guarnieri in quel libro, di strettissima connessione fra i comunisti e la segreteria di Stato, è vero. Quindi questa io trovo veramente bellissima, non c'è Pastorelli, peccato, perché questi documenti diplomatici rivelano delle cose, e questo qui è come se uno andasse per sapere se si sono incontrati Dayan e Arafat, e vada Dayan e dice scusi, lei ha incontrato Arafat, l'altro giorno dice no, ma per carità, mai visto, era un criminale al muro. Cioè, o anche Sadat, quando Sadat e Begin si vedevano in Romania, no? Quindi chiaramente il rumore di questa cosa c'è stato, perché sennò il ministero non incaricava l'ambasciata di verificare. E l'ambasciata risponde, direi, con una grande ingenuità. Questo perché? Perché allora qui si potrebbe ipotizzare che Montini, il quale aiuta De Gasperi, addirittura cerca di agire sul Partito Comunista, perché da una parte il Vaticano, dall'altra il Partito Comunista, abbandonino questi poverini, i quali allora forse avevano più importanza di quello che noi non pensiamo, perché se si deve mettere in moto tutta sta macchina per fargli la testa, per tagliargli la testa. Sorvolo sul problema delle Acli, sorvolo su tutto, vi faccio vi do un ultimo dato, secondo me anche abbastanza importante, che si collega al problema dell'articolo 7 della Costituzione. In un incontro riservatissimo e fino a oggi a mio avviso segreto fra Visconti Venosta, che fungeva da ministro degli esteri nel settembre 1944, e Monsignor Montini, Visconti Venosta, incontro nel quale si trattano di varie questioni delicate, questione del vescovo castrense, nunziatura di Lisbona, accordi fra l'Unione Sovietica e il Vaticano e, ultimo punto, modificazione dello stato giuridico territoriale della Santa Sede. Monsignor Montini dichiara che effettivamente esisteva una corrente, guardate com'è ecclesiastico questo così, cioè Monsignor Montini ha dichiarato che effettivamente esisteva una corrente per assicurare la indipendenza delle comunicazioni alla città del Vaticano. In sostanza c'era stata una voce che il Vaticano voleva ingrandimenti territoriali, sì, certo. E approfittando della sconfitta. E a Monsignor Montini, guardate, è bellissima questa frase, no? La segreteria di Stato non vi si associava. Non vi si associava. Questo è Visconti Venosta il documento, cioè non è di un... ha parlato di un campo di aviazione o piuttosto di una parte di un campo di aviazione, poi l'hanno avuto il riporto, no? Ce l'hanno adesso, parla voi di la vola sempre. Ma assicurato che questioni del genere non verranno poste adesso sul tappeto e che nessuna iniziativa verrà presa attraverso, ha pure accennato all'eventualità della presentazione dei patti lateranensi all'organizzazione che sostituirà la Società delle Nazioni. 22 settembre 1944. In data di poco successiva, scusate, si capisce da una risposta del Dipartimento di Stato a Taylor che posta, perché qui la lettera non c'è, c'è soltanto la risposta, la lettera di Nofo non l'ha trovata, praticamente il Vaticano si muove per entrare a far parte delle Nazioni Unite e quindi entrare a far parte delle Nazioni Unite in un certo senso far consolidare i patti lateranensi attraverso una specie di garanzia internazionale, che era poi la vecchia idea dell'internazionalizzazione della questione romana. E il Dipartimento di Stato fa un elenco di 9 questioni in cui dice, con riferimento a quello che ci avete detto, per vostra guida e informazione confidenziale vi inviamo le seguenti osservazioni. L'ammissione alla qualità di membro sarà determinata dall'organizzazione internazionale e richiederà il consenso delle maggiori potenze, compresa l'Unione Sovietica. E poi i membri originari che non hanno relazioni diplomatiche con il Vaticano probabilmente ne approveranno l'ammissione in qualche caso, ma farà sorgere una controversia politica. Comunque adesso non ve lo sto a dettagliare, cioè l'America gli dice no, il Vaticano non può entrare a far parte delle Nazioni Unite. Allora, è a questo punto che secondo me nasce il problema della idea del richiamo costituzionale. Cioè, come nasce? Questo non ve lo so dire. Perché? Allora, in questa data, fino a questo momento, il Vaticano probabilmente ritiene che basti internazionalizzare i patti lateranensi per dargli una, per rafforzare, cioè per impedire che crollino con il regime. Però questa strada non va. Ecco, a questo punto, qui c'è un punto che rimane aperto e sul quale io non mi soffermo e sul quale purtroppo scoppola, né scoppola né gli altri danno lumi, ed è il punto di in testa a chi nasce l'idea della costituzionalizzazione dei patti lateranensi. Cioè io non ho trovato nessun dato che questa idea del richiamo costituzionale nasca in Vaticano, cioè nasca nel mondo ecclesiastico. Dove nasca non si sa, chi la difende la Costituente è Dossetti, però io ho l'impressione che non sia di provenienza, non sia un'idea dossettiana, e poi il Vaticano la sposi su questo. Io ho l'impressione, sulla base così di una lettura molto attenta delle idee ricostruttive e del programma LDC, che forse è un po' nella testa di Gonella che nasce questa idea, di Gonella che era molto legato a De Gasperi in quel momento. Ecco, questo ancora per dirvi che ci sono delle differenziazioni. Certo, il Vaticano. E due ultimi punti di cui non parlo, cioè secondo me altri due punti che servono a confermare la tesi che in effetti è De Gasperi in gran parte a strumentalizzare i vertici del Vaticano in favore e dell'unità politica dei cattolici e della sua leadership, in questo caso sono l'operazione Dossetti e l'operazione Sturzo. Sturzo. L'operazione Sturzo. Operazione Sturzo, due fasi, rientro Sturzo, che De Gasperi fa di tutto, si capisce chiaramente, per ritardare Naum, e l'operazione Dossetti, dove c'è quella lettera abbastanza, adesso io non ve ne do lettura, ma vi suggerisco di leggervela, quella lettera abbastanza allucinante che la Maria Romana data al marzo 52, ma che invece è, con i riferimenti precisi, degli inizi del 51, che devo dire, in cui praticamente De Gasperi chiede al Papa in sostanza di intervenire. Quindi questo per dire, quest'uomo è certamente nei suoi rapporti con il Vaticano, non solo ci sono stati, ci sono sempre stati ab origine, ma direi che certamente se uno crede che tutto il Vaticano sia il cardinale Ottaviani, la curia sia il cardinale Ottaviani, vabbè, cioè, chiaramente De Gasperi e Ottaviani non erano vasi comunicanti, ma se uno si rende conto che il Vaticano, la curia sono delle cose molto più complesse, allora il rapporto De Gasperi e Vaticano appare sotto tutta un'altra luce. Scusatemi, soprattutto il disordine. Yeah, solche, vor allem deswegen, mitgemacht und